Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Agostino Spolaore. In questo preciso istante sono le 21 passate da un minuto. Questa è la vostra emittente, come piace dire al sottoscritto, cioè quella preferita, Blu Radio Veneto. Buonasera anche dal mio ormai inseparabile collega, il mio 50%, giusto? Sì, buonasera, non fisicamente. Ciao Maurizio Calzavara, benvenuto anche a te. Buonasera ai nostri ascoltatori, felici ascoltatori stasera, sicuramente felici ascoltatori. Stasera sarà una serata simpaticissima, perché lui, che il cantante, l'autore, il cantautore che è qui con noi questa sera, è un carissimo amico prima di tutto, ma lo presentiamo tra qualche istante. Quindi prima ancora qualche dato tecnico della nostra emittente, cioè Blu Radio Veneto. Dicevo, vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. Vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it, dove trovate tutto quanto quello che può essere inerente alla vostra regione, cioè il Veneto in questo caso, ma anche le recensioni sui vari artisti che passano, quindi troverete anche quella di dell'autore di questa sera. Poi ancora vi ricordo le nostre pagine su Facebook, che sono semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra invece è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita totalmente dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che salutiamo. Sì, che arriverà fra dopo le 10:30. Alle 22:30 con la sua classifica e la musica rock. Dicevo, un caro amico, un carissimo amico, venuto a trovarci questa sera, ha accettato il nostro invito. Ci fa molto piacere ed onore averlo qui. Si chiama Dario Petucco. Ciao Dario. Ciao Ago e ciao Maurizio. Buonasera Dario. Buonasera. Benvenuto a Blu Radio Veneto. Grazie dell'invito, per me è stato ed è un piacere essere qui. Grazie. Anche per noi, anche grazie. Per me. E poi comunque lui non è venuto da solo, ma troviamo al piano Matteo Valli. Ciao a tutti. E alla chitarra Manuel Mocellin. Ciao a tutti. Benissimo. Matteo Valli è anche l'arrangiatore assieme a Dario del disco. Io avevo letto chi è questo Matteo Valli, adesso abbiamo visto chi è questo Matteo Valli. Sì. Allora, fatto un buon viaggio, perché fai poca strada, Marostica, insomma, è vicina. Sì, il viaggio è stato confortevole, sì. Le hostess sono state brave, ci hanno portato da bere. Cosa ti sei ascoltato venendo qui? Questa sera abbiamo ascoltato la radio stranamente. Wow. Di solito ascoltiamo qualche disco. Dovevo far ascoltare l'ultimo album dei Coldplay a Matteo, ma non abbiamo fatto tempo. Abbiamo anche chiacchierato di molte cose. Insomma, non abbiamo dato ascolto benissimo la radio, abbiamo più che altro chiacchierato di varie cose, di vari progetti, di varie idee, insomma. Che stanno venendo fuori, stanno sviluppando. Sì, sì, sì. Di vari progetti che ci sono, che sono attuali e che insomma che forse si svilupperanno anche in futuro, spero. E come mai, dopo chiudiamo la parentesi, vuoi sentire l'ultimo dei Coldplay? Qual motivo? Ma io sono sempre Smarty stato... ti attira musicalmente? I Coldplay sono, a me piacciono per la loro fantasia, adoro... Il loro cantante, più che altro anche come pianista, ha a volte utilizza degli accordi. Infatti ogni tanto con Matteo siamo andati circa 2 anni fa ad Udine a vedere il loro concerto. Ed è stata un'esperienza bellissima. Infatti ogni volta, diceva Matteo, ogni tanto fermavo il disco in 2-3 secondi di canzone, dicevo: Matteo, su questo accordo io e te dobbiamo fare una canzone. Ci ridevamo sopra, però insomma... hanno una fantasia e poi sono una vera band. Quella è una bellissima loro caratteristica. Ma anche stasera abbiamo una vera band. Sì, assolutamente. È quello importante. Grandi musicisti stasera. Al di là del cantante, abbiamo dei musicisti fantastici. Beh, io ti ho conosciuto con un disco in acustico che mi è piaciuto dopo 5 secondi, cioè veramente una cosa pazzesca. Mi è piaciuto subito il tuo disco, Grande Mario si chiama. Sì. Un disco che hai fatto a tre. Con sei mani praticamente. Esattamente. C'era Matteo. Sì. C'eri tu e c'era Alessia. Filippo. Alessia, la grandissima Alessia Ippoliti. Che abbiamo avuto modo di avere qui, anche quando è venuta la Barbara Gobbi. È splendida, è veramente una chitarrista eccezionale, insomma. Sì, e dopo è anche una splendida ragazza, al di là dell'aspetto fisico, ma anche come persona è molto bello stare insieme con lei, anche perché il rapporto musicale che avevamo insieme ha creato delle armonie, chiamiamolo così, molto molto intense. Infatti dal vivo la pelle d'oca c'era sempre, c'è ancora sempre adesso, purtroppo anzi ben per lei è in tournée mondiale con Massimo Ranieri. Per me è stato ed è un grandissimo orgoglio saperla lì. Purtroppo stasera non c'è, però ho un degnissimo sostituto, e però Alessia è una persona che voglio salutare. È a Salerno stasera, sì, stasera è a Salerno. No, mi sono sbagliato con la data. Ne ha talmente tante che a volte faccio davvero è difficile anche comunicare addirittura via Facebook, che bene o male Facebook insomma ormai è diventato il nostro certo. modo di comunicare più semplice, più del telefono, ed è difficile trovarla perché è davvero una vagabonda. Una cosa da sottolineare, abbiamo già sottolineato nella recensione della redazione di Blue Radio Veneto, avete interagito tutti e tre assieme, Dario, Matteo e Alessia, c'è poco da fare, ogni elemento ha interagito assieme, avete fatto un elemento continuo con un gruppo vero e proprio, gruppo al 100%, e questa è la bellezza del disco, secondo me non ci sono divisioni, c'è un'unione di intenti totale. Il mio intento era appunto l'album era, faccio una piccolissima parentesi, è stato, volevo creare, portare i tre strumenti a corda per eccellenza, pianoforte, chitarra e voce, metterli insieme e fare un tutt'uno, creare qualcosa che sia diverso da tutte le cose, tutte le musiche che si sentono ultimamente, ed era una esigenza che avevo perché venivo da 10 anni di cover band, sempre elettrico così, e ho trovato Alessia per caso, Matteo ormai è un mio collaboratore ormai da anni, è che lo conosco da 10, ma penso che se ci fossimo conosciuti 20 anni fa avremmo fatto l'asilo insieme sicuramente. Perfetto. No, 20 magari no, però insomma qualcosa di più. E, però quello che ho voluto su quest'album è stata la libertà di scelta, nel senso che io ho detto questo è il brano, io facevo ascoltare il mio brano voce e chitarra, l'ho dato in mano a Matteo ha creato degli elementi, Alessia ha creato i suoi, è come un quadro, metti insieme un quadro, io ho messo il giallo, Matteo il rosso e l'Alessia il blu, e la cornice poi è nata da sola. Chiaro, benissimo, sì, è proprio così, l'efficacia del disco nasce proprio da questo praticamente, da questa idea, fa piacere. Poi ci ritorneremo magari al disco, diciamo, d'esordio, sì. No? Il grande Mario. Ma adesso ci ascoltiamo qualcosa di nuovo, giusto? Sì, di nuovo, una new Così entry. Per spezzare la catena, diciamo, in giusto. Questo momento. Cosa ci hai scelto, cosa ci hai proposto, cosa ci proponi, meglio dire? Stasera vi faccio ascoltare come primo brano Luce e Calore, che è il brano che dà il titolo al mio nuovo EP, che è uscito quest'anno, e che lo trovate, mi faccio il pubblicità, giustamente. Certo. E, iTunes, Amazon... E Orange Music, lo trovate lì, costa meno di 3 euro, sono 3 brani appunto, è un EP, e Luce e Calore è il brano che dà titolo a questo EP. Ok, l'ascoltiamo. Parla di te, ogni cosa è un tuo ritratto, consumato dagli errori dell'istinto. Oggi sono un po' così, e non chiedermi perché. Non è il momento giusto, e la paura è più forte del coraggio, e mi ritrovo a soffocare un'emozione che parla di te. Vorrei avere la soluzione, anche se in fondo osservarmi dentro, fermando il mio respiro. Solo un battito riflesso. Radio Sera. Sei decisamente diverso in questo disco rispetto al grande Mario. Senza ombra di dubbio. Qui si sente anche la collaborazione di un grandissimo Antonio Capolupo e Roberto Priore, che saluto, spero siano, che ci stiano ascoltando da quel di Bologna. E sì, Antonio Capolupo è stata una chiave di svolta, è un grandissimo arrangiatore. Lui è stato a Sanremo con i Milagro, ha avuto delle produzioni con la Sugar, con la EMI, e viene da un mondo musicale, passami il termine, più elevato, nel senso di un livello sopra il mio a livello tecnico e anche a livello di conoscenza del, chiamiamolo mercato, però del mondo, nel senso che determinate sonorità, determinate idee le devi avere solamente se sei davvero a livelli, cioè che hai la possibilità di toccare con mano tutto. Io qui ho grandissime possibilità senza ombra di dubbio, però siamo un po' limitati nello stesso tempo, sia per la zona sia per le difficoltà che a volte si trovano a suonare dal vivo, cioè nel senso che a Bologna non è facile, però è un po' più semplice suonare Bologna, Milano, Roma, suonare con i propri brani. Qui se non sei tu ad organizzarti, a trovare il locale, a far tutte quelle solite cose che ormai tutti i musicisti saranno d'accordo con me a dire questa cosa qui, nessuno davvero ti segue. E io volevo salutare e ringraziare i ragazzi che mi stanno ascoltando, che da anni mi seguono, e anche quelli che non mi stanno ascoltando, va bene lo stesso, perché sono stati comunque loro la benzina per il motore, per potermi far volare fino a un certo punto, però comunque riuscire a volare. Ed è stata la cosa che più, cioè è stata la forza più grande che ho avuto per continuare a voler fare il musicista con questa determinazione. Certo, certo. Beh, ci sei riuscito in pieno. Volevo chiederti, Dario, questo disco, questo EP, è diciamo un'anteprima di quello che può essere il prossimo disco, o è una cosa fine a se stessa? È un'anteprima per il prossimo disco, resta sempre comunque il problema, sia per un fatto economico, sociale, storico, che è difficile trovare i fondi per poter produrre un album. Produrre un album ha dei costi, al di là della produzione, ha dei costi proprio di marketing, che sono quelli, la classica voce X del bilancio, che non ti fanno capire quanto si andrà a spendere, perché meno male un studio di musicisti sai cosa puoi andare a spendere. E lì trovare i finanziatori, o comunque trovare un produttore serio, perché dobbiamo parlare anche di questo, perché ci sono tanti produttori che dicono: io faccio il produttore discografico. E che poi è diverso dal produttore, proprio dall'analizzatore dei pezzi, cioè sì, quello che cerca la chiave di lettura giusta. Sì, che poi sono quelli che ti attirano dentro la giostra e poi non sai poi quando. Esatto, bravissimo. Capita. Vieni fuori. Spesso e volentieri? Sì, sì. E di conseguenza diventa difficile, oltre a trovarlo, a selezionarlo, nel senso che io dico sempre di essere stato fortunato ad avere il piacere e l'onore di conoscere Antonio e che lui accettasse questa mia idea e, perché le richieste sono davvero tante, e lui quello che ha potuto fare lo ha fatto di più, perché ha fatto davvero un lavoro, me lo diceva sempre Dario: a volte mi sveglio alle 3 di notte con un'idea del tuo disco, della tua canzone, quel synth, poi magari non funziona, però intanto ci ho provato, ed è una persona umilissima, e questa è la base, secondo me, che deve avere sono un grande musicista. E è una persona davvero fantastica, a pelle. Sono pienamente d'accordo con te sul fatto dell'umiltà, insomma, perché questo è un mondo dove, se si è umili, secondo il mio punto di vista, si va avanti, se no altrimenti dalle stelle alle stalle facilmente, in pochi minuti, in pochi istanti. Mio papà mi ha insegnato sempre una grande cosa. Mio papà, ancora quando ero giovane, mi diceva: guarda Dario, c'ho X anni, tipo 50 anni, e devo ancora capire tante cose dalla vita. E l'ho preso come esempio, perché ogni giorno impari qualcosa, certo, di nuovo. Giusto, c'è sempre qualcosa da imparare, insomma. Va bene, adesso impariamo a suonare anche noi, però. Sì, sì, sì, beh, certo. Adesso abbiamo dato un'anteprima del disco nuovo di Dario Petucco, che vi stiamo regalando, vi stiamo cercando di farvelo conoscere un po' di più. Ma torniamo al disco d'esordio, insomma. Dario, quel disco che io... Che ti sei innamorato. Sì, sì, mi è piaciuto tantissimo. Poi questo titolo, Grande Mario. Ma poi è proprio l'idea mi è piaciuta, cioè il fatto di fare totalmente e completamente un disco acustico. È stranissimo. Poi il disco d'esordio, poi oltretutto, bravo, che c'è magari qualcuno che cerca sempre di metterci dentro una canzone pop, giusto per il mercato chiama quello, oppure la canzone rock. Tu invece l'hai fatto proprio solo acustico. Perché? È stata un'esigenza che avevo. Erano anni che cercavo qualcosa di diverso, come dicevo prima, dell'elettrico, cover band, tutto il resto, tutto. Era un periodo molto vivo anche di musica dal vivo. Gioco di parole, vabbè. Però ero un po' stanco di questa cosa. Poi ha giocato il fatto che a Bologna mi sono laureato in musica contemporanea popolare e ne ho approfittato per farlo come progetto di laurea. È stato il mio lavoro più intenso, più difficile. Le ore che abbiamo fatto io e Matteo, penso che lui potrebbe testimoniare. Cose assurde, però era una cosa che volevo. Lo volevo a tutti i costi. Volevo spogliarmi di tutti quei vestiti, di mettermi a nudo e di voler fare la cosa più essenziale, perché comunque alla fine le grandi cose vengono fatte dalle cose piccole. Io prendo questo esempio: una spiaggia è formata da infiniti granelli di sabbia. Se non ci sono però quei granelli di sabbia, quegli infimi granelli di sabbia, la spiaggia non potrebbe esistere. Certo. Le grandi cose vengono fatte dalle piccole e bisogna partire dal basso per voler arrivare in alto, per vivere, gustarti la soddisfazione, perché vedo al giorno d'oggi molte persone vivono, nascono con, non so, la Mercedes del papà, i 100 euro in tasca, però se quei 100 euro non te li sei guadagnati, prima di spenderli ci pensi, certo. Se ce li hai, ovvi. Questo è un male comune, insomma, sì, della società, dei giovani d'oggi soprattutto, insomma, hanno tutto e gli manca tutto. Io dico sempre che io sono un uomo fortunato, ho avuto molto dalla vita, però sono anche molto fortunato perché comunque i miei genitori mi hanno insegnato davvero a guadagnarti, ma anche le piccole cose, che sono quelle le più grandi vittorie alla fine. E quest'album è stato per me una vittoria, poi vederlo in qualche concerto che ho fatto, vedere questa gente che resta lì in silenzio ad ascoltarti 2 ore e non li stanchi, sono ancora lì che vogliono, chiedono il bis, non esistono i 10, 100 mila euro. Voglio dire. Senti, Dario, facciamo una cosa, anche noi vogliamo stare in silenzio adesso, ascoltarti. Va bene, va bene. Chiedo ai miei collaboratori se sono d'accordo, se c'han voglia. Sì. Cosa ci fate ascoltare adesso? Adesso vi facciamo ascoltare Ninfea e ve la introdurrò come deve essere introdotta. Immaginatevi di essere in un posto, in una foresta, e non sapete il perché siete lì, però ci siete e siete arrivati completamente nudi in questa foresta. E su questa foresta incominciate a camminare, trovate un sentiero, provate a chiudere gli occhi e immaginarvi questo posto, immaginario, il vostro posto. E mentre camminate in questo sentiero, le piante vi toccano e l'umidità cresce, continua a toccarvi e continua a crearvi come un'aurea. E ad un certo punto, camminando, arrivate in questo stagno, meraviglioso stagno, dove questa cascata vi avvolge del suo suono e del suo calore. Vi immergete in quest'acqua e trovate lei, Ninfea. Ninfea. Eccoci qua, posso dire una cosa? Tu hai una voce potente, ma allo stesso tempo rotonda, è quello il discorso, dà un certo senso. E poi giochi col falsetto, è una cosa meravigliosa. Giocare con il falsetto, senso positivo, musicalmente parlando, sì, è difficile, ma è molto eccitante musicalmente, è molto, dà molta sensazione, dà molta emozione. Beh, secondo me è anche un po' il segreto di Giuliano Sangiorgi, il cantante di Negramaro, che ha avuto appunto il suo successo con questa voce particolare, che poi piace a molti e a tanti non piace, sia chiaro, però il loro successo, al di là della loro questione autorale, certo. Secondo me è dovuta anche per il fatto della sua voce. La mia voce, dico sempre, è un regalo, perché è vero che sì, io l'ho curata, ho cominciato da giovane, mi è piaciuto da subito cantare, però è una questione di genetica. Devo ringraziare mamma e papà per questo dono, insomma, il merito è loro. I nostri ascoltatori non hanno visto, a proposito, adesso la Chiara sta facendo le fotografie, ringraziamo, è tornato la nostra fotografa ufficiale. Ciao, Chiara. I nostri ascoltatori non hanno visto, però io ho visto quando Matteo ti ha dato l'ok, vi siete guardati un secondo, Matteo ha detto ok e sei partito. È una cosa positiva questa, e questo ritorna al discorso del gruppo, dell'interagire assieme, di avere un gruppo continuo, una cosa unica. Beh, infatti, dicevo, Matteo, ormai sono quanti? 10 anni? 10? 9? 8? 7? 6? No, è un bel pezzo che suoniamo, però c'è da dire una cosa. Ad esempio con Manuel sono appena 2 anni che suoniamo insieme. Ma anche Manuel ha dato, anche lui ha dato il suo contributo validissimo in questo momento. È una questione di fine, è una questione di pelle. Esatto, hai detto una cosa. Io ho detto a loro fuori, prima, quando non mi stavate ascoltando, ho detto... Adesso non perché siete qui, perché sennò sembra che io sviolini. Chi mi conosce sa che quando devo dire una cosa la dico sincera. Però si sente che sono quelle cose, le persone, quando hai un feeling, crei un feeling da subito, c'è qualcosa. Poi ci sono delle persone, magari, che a pelle, è proprio chimica, la chiamo chimica, magari senti meno degli altri. Però siamo arrivati qui, l'accoglienza, faccio un esempio. Tutte queste cose qui, anche il sentirsi al telefono, è una cosa, senti subito se c'è del feeling. Infatti questo musicalmente con loro è nato, c'è stato, però è una questione proprio di ingranaggi, di un puzzle, i pezzi che si incastrano nel momento giusto e poi le cose vengono da sole. E Ninfea, che è un pezzo molto emozionante, con grande pathos, come tu hai sottolineato, dove è partita l'idea con Alessandra e Matteo dopo, ma prima è partita da te l'idea? Ninfea era un brano, ed è un brano che ho dedicato a una mia ex ragazza di Vigo d'Arzere, qui in zona praticamente, che lei era davvero, ed è ancora adesso, è un pezzo che non la vedo, però una ragazza bellissima, ed era un fiore, io la vedevo davvero come una ninfea, cioè questo fiore bianco, rosa, viola che sia, in mezzo a quest'acqua, e mi dava questa sensazione. Poi la ninfea è un fiore appunto acquatico, sì, vero. E ti dà, quando la vedi, è un fiore diverso dagli altri, sei abituato a vederle ad esempio su un vaso, invece questo fiore acquatico con questi colori vive in mezzo all'acqua, già di per sé è una cosa bellissima, ma mi dà quel senso, questa rotondità, questo, e mi ha creato questa metafora tra lei e la ninfea, perché se si prende metaforicamente questo brano, è un brano molto romantico ma anche un brano molto molto sensuale. Ed era quello che lei mi trasmetteva, e niente, ho mescolato queste cose, ho visto una ninfea, vedevo lei, e sai, nei momenti, i più bei momenti, soprattutto all'inizio di una storia, sono riuscito a creare. Poi dico sempre, non riesco, mi dicono come fai a comporre una canzone, non lo so, mi vengono da dentro, cioè sono periodi che scrivo moltissimo, periodi ad esempio come questo, ed è un bel pezzo che non scrivo nulla, perché proprio sono momenti. Matteo poi potrà dirlo anche lui, perché è un grandissimo autore, lui sì, è davvero un grande autore. Poi vi dirò una cosa prima di presentare il prossimo brano, che mi ha fatto tra virgolette arrabbiare, però sono quelle cose che anche quelle sono dentro di te, non le puoi creare, ci puoi mettere quanto vuoi. Io ho scritto 100.000 volte dei testi e non riuscivano, poi una sera, che ne so, per ridere, sono in bagno, scrivo e arriva la canzone perfetta. Cioè non... Ma c'è un qualcosa che ti stimola a scrivere? C'è un evento, un qualcosa? Magari o... soprattutto nei momenti o più tristi o più gioiosi, quando hai una sensazione, qualcosa, ti saltano fuori di getto. Poi altri testi magari più, come si può dire, meno istintivi, più pensati, quelli li crei, hai un'idea e poi la sviluppi man mano. come secondo me un quadro, fai la bozza e poi dici, beh, secondo me il giorno dopo ti svegli, qua ci va un po' di più rosso, lì ci va un po' di più giallo, un po' di più, insomma, non so, è una cosa che alcuni brani arrivano di getto, altri no, sono più non studiati, però arrivano man mano. Ad esempio, poi vi racconterò di Grande Mario. Insomma, ci sono un po' di curiosità che vi lascio. A proposito del bagno, non so se lo sapevi, dicono sì, gli esperti che Strawberry Field Forever l'ha scritto in bagno John Lennon. Ma può essere, perché l'ha comunque scritto in bagno, cioè non so se sia, però adesso c'è questa voce che corre che l'abbia scritto in bagno una parte. Tante volte ha avuto questa idea. Sì, si ride del fatto del bagno, ma no, ma... però se ci siamo papali, panasane, vino al vino. Certo. Il bagno è uno dei posti più intimi. Certo. Sei tu e le tue mattonelle, la vasca, quello che... Però è un momento davvero molto intimo. Certo. Adesso io lo dicevo per scherzare, però ci sono dei momenti in cui sei con te stesso. E lì non hai nessuna pressione. No, sei da solo. No. Sono quegli unici 5, 10, 20 sì, minuti in base a persona che hai davvero tranquillità. Certo. Io ho un papiro da leggerti, sì. Dario. C'è una tua carissima amica, lei con papale. Sì. Che è venuta qui anche in studio. Dai. Si chiama Elisa. Elisa, un bacio enorme. E saluto anche Michele, già che ci sono. Certo, assolutamente. Allora, lei dice, vi sto ascoltando con piacevolissimo. La musica di Dario è stata compagnia per me in tanti momenti speciali. Lui sa che ho un'ammirazione particolare per la sua musica e sono contenta che sia da voi questa sera. Merita davvero tanto. Poi, questo è in privato, invece che lo vedono tutti, ha scritto mando un abbraccio al mitico Dario, lo sto ascoltando. Spero di vederlo presto a Bologna. Un abbraccio anche a te e Maurizio, sempre unici. Grazie. Ciao Elisa, un bacione grande, un abbraccio, spero di rivederti presto anche qui con Michele. Le mando un abbraccio grande, come a tante persone, ma un abbraccio particolare, perché le faccio un in bocca al lupo, lei sa perché. Forse anch'io. ce la facciamo e perché tante volte sei stata motivo d'orgoglio, perché mi hai detto alcune cose che sono state molto intime e molto belle, te lo dico con emozione in questo momento, e ti ringrazio per avermi fatto partecipe della sì, tua vita, dei tuoi momenti, e ne sono davvero felice di averti potuto dare magari quei due minuti o quel minuto di felicità e tranquillità, perché a volte nella vita trovare la tranquillità e la felicità è la cosa più certo, difficile. Un abbraccio enorme. E adesso Dario ci canti qualcosa. Sì, adesso vi facciamo ascoltare uno dei brani, anzi l'unico brano dell'album che mi ha fatto arrabbiare, tra virgolette. Adesso lo spieghi il perché. Adesso ti spiego il perché. Perché questo è l'unico brano da me non scritto che ho voluto fortemente in questo album, che si chiama Nel vento e nel temporale, composto dal qui presente Matteo Valli, e che tra i vari, tra virgolette, questionari vocali che ho fatto con i miei, tra virgolette, amici, fans, non so come chiamarli, tutti, vabbè, un buon 75-80% hanno detto la più bella canzone dell'album è Nel vento e nel temporale. Però ho detto, ne metto uno di un altro ed è il preferito? Che amici che ho, che amici. No, io tra virgolette sto scherzando, perché ne sono orgogliosissimo. È stato un brano davvero che ho voluto. Lui mi ha detto, Dario, avrai questo brano, ti faccio sentire. Ho detto, mi piacerebbe averlo. Lo ascolto e ho detto, maledetto, lo voglio io, te lo rubo. Gli ho detto ridendo. È un brano fantastico, pianoforte e voce, Nel vento e nel temporale di Matteo Valli. L'hai scritto proprio tutto tu? Solo tu? Sì. Senza l'aiuto di abbastanza di getto. In bagno? No, al lavoro. però. Ok, l'ascoltiamo. Thank you. Scusami, quante volte avrei voluto portarti via da qui. Parlami, dimmi come stai adesso, piangi ancora oppure no? Pensami quando il vento piano ti attraverserà, quando anche il temporale ti scalderà. Grande Matteo Valli. È una intensità unica sta canzone. Sì, sono d'accordo. Ti stai commuovendo? No. Guarda che non è la prima volta che succede, te lo dico, perché è già successo. No, è che non la ricordo mai. Ah, non la ricordi mai? Io non volevo dirlo, però possiamo sfatare questa cosa in diretta, tanto voglio dire, sono tutti amici. Questo brano, il suo brano, se ne deve sbagliare uno, sbaglia il suo, ecco. Sempre, ma è una cosa, ogni volta che lo facciamo dal vivo, non te lo so spiegare, è una canzone, tra virgolette, passami termine, maledetta, nel senso che ogni volta c'è qualcosa, può fare perfetta tutta la serata, 2 ore senza fare un errore, vabbè è difficile, però voglio dire, capita. Se deve sbagliare qualcosa è questo. E ogni volta ci facciamo delle risate che non hai idea. Ma però poi insomma, credo che forse il problema sta nella sua anima. Cioè lui è molto sensibile. Assolutamente. E quindi si emoziona nelle cose sue. Ecco che è normale. Ma penso che quando si trova tanta sensibilità, sì, si sta meglio. Poi io non vorrei entrare nella vita privata di no, Valli. No, ci mancherebbe. No, nel senso che comunque lui è una persona che non lo fa vedere, ma ha una sensibilità. Poi basta ascoltare questo brano, come la prima volta che me l'ha fatto sentire, davvero ci sono restato. Ed è così come è nato, nel senso che certo, non ci sono state grandi variazioni. Grazie alla mia famiglia, grazie a tutte le persone che in qualsiasi modo sono parte di questo mio viaggio. Grazie a chi se n'è andato e a chi deve ancora arrivare. E grazie a Dario per avermi voluto con sé durante tutta la realizzazione di questo lavoro. Sono parole tue, Matteo. Sì, i ringraziamenti del disco. Certo, e quindi un grazie ancora di più a Dario che ha voluto queste tue parole. Sì, infatti. Grazie. Dario, tu hai suonato, hai cantato, ti sei esibito in 300 concerti. Sì, circa sì. Quindi, e poi una cosa, avevi citato già prima il discorso di musica contemporanea, sei stato in Inghilterra, sì. Hai fatto quella scuola, la scuola più importante di musica contemporanea che c'è in giro adesso. Sì, beh, arriva praticamente il Music Academy 2000 di Bologna, che saluto tutti i ragazzi e tutto lo staff di questa scuola, praticamente fa parte di un... di un gruppo, chiamalo così, non mi viene il termine inglese, portate pazienza, di un network, ecco. Di cui fa capo l'ACM, a cittadina vicino a Londra, che è una delle 3 scuole più importanti al mondo di musica contemporanea, e lì ci hanno dato la possibilità di suonare e di cantare in questo festival, il Guild Fest, a Guildford, appunto, dove è la sede dell'ACM. E insomma è stata una grandissima esperienza. Abbiamo suonato proprio, c'era lì Alessia, è stato diciamo il primo vero contatto l'hai con avuto lei là, praticamente. Ed è stata un'esperienza fantastica. Poi lì hanno una mentalità diversa su tante cose, sulla musica. Tu vai nei locali, al di là del fatto che alle 10 chiudono, ti mandano a casa e alle 11 sei bello a letto, sei bello fresco la mattina, non esiste, cioè sono rari i locali alle 4, sono due nei paesini. E lì di bello è che se tu vai in un locale, alle 7 cominciano il concerto, ci sono tre band di musica indipendente, cioè ognuno porta il suo. Qui se lo fai qui, Vasco, fammi va, Ligabue. Adesso con tutto il rispetto, per, sì, carità. Per carità, però non hai, come dicevo prima, non hai davvero la possibilità di dimostrare non quello che sai fare, però quello che vuoi dire. Certo, tu hai detto una cosa giusta, di musica indipendente. Recentemente è venuta una band che è stata in Germania, in un locale, e questo locale tedesco voleva esclusivamente musica propria, delle cover di Never Blue. Non esistevano le cover, musica propria, indipendente propria. E questa... Ma è un discorso di mentalità, però, sì, sai. Beh, ma è come, ad esempio, io non sono un amante, non seguo il mondo del calcio, però è anche vero che, faccio un esempio calcistico, se non crei una primavera di giovani talenti italiani, è logico che avrai sempre squadre con stranieri, con tutto rispetto per carità dei grandi giocatori della grande squadra, però se non coltivi la tua terra, se non tiri su le tue piante, è logico che andrai a prenderle all'estero e no. Cioè è questo che manca, da noi manca davvero questo tipo di mentalità, che è quello che blocca o mette dei fermi a noi ragazzi giovani e non più giovani, emergenti, che vogliono davvero dire la propria, perché il sogno di tutti, per carità, è logico, di poter vivere di musica, di poter avere la possibilità di dare un futuro alla tua famiglia, di girare per l'Italia. Il mio sogno davvero è sempre stato quello e comunque resta quello. Resta però il fatto che è un cassetto ancora molto duro da aprire. Non so se lo aprirò, sono felice di quello che sono riuscito ad ottenere. Però tante volte ti fa star male, perché dici, ma guarda quello, non è capace di cantare, e gli danno delle canzoni che fanno piangere, ed è a Sanremo, perché magari il solito discorso, adesso non voglio dirla alla conoscenza, però comunque ha la possibilità, ha più possibilità di te, e arriva lì e tu dici, però... Però poi si ferma. Sì, si ferma. Alcuni però riescono ad andare avanti. Adesso io non voglio fare la critica di nessuno, perché poi, tecnicamente parlando, ad esempio, con tutto rispetto, però ad esempio nei primi anni Cesare Cremonini lasciava abbastanza a desiderare a livello vocale. Sicuramente si è migliorato con gli anni. A livello autorale, tanto di cappello, c'ha delle cose fantastiche, magari quelle meno conosciute sono davvero belle. Però anche quello è un esempio che tu sei lì, va... studi, hai una dote che ti hanno dato, ma al di là dello studio hai la voglia di creare, di fare, e non hai la stessa possibilità. Certo. E questo dal produttore, Dario, dipende dal produttore. San Giorgi, come tutti sappiamo, è diventato San Giorgi la band di Negramaro. Sono andati in Negramaro perché Caterina Caselli li ha scoperti, non erano nessuno. Cioè non erano conosciuti, assolutamente. Ecco, è quello che ogni tanto mi dico, ma perché io non ho quella possibilità? Ho provato a scriverle, a mandarle, a fare... Niente, davvero. Ma lì subentra un altro fattore. Un altro fattore. Dopo me lo spiegate, perché io non ci sono ancora arrivato, ragazzi. Posso solo consolarti dicendo che non sei l'unico. Non sei né il primo e neanche l'ultimo. Su un cantante famoso ce ne sono un milione che ci provano. Io, insomma. Però sei riuscito, nonostante tutto, dopo anni sei riuscito a incidere un album tuo. Sì. E quello è importante. Che album. È importante. Grazie, al di là di tutto, al di là di tutte le discussioni che possiamo fare. Una cosa che dico sempre, che sono orgoglioso, è che sono riuscito ad arrivare dove sono, indipendentemente dal livello 1 al livello 10, certo, con i miei mezzi. È quello importante. E con la stima, adesso non voglio fare però quello che si dà delle arie, però effettivamente l'ho scoperto anche con la stima che ho avuto, che è stata reciproca, con gli amici di Bologna, con i produttori di Bologna, con i ragazzi qua, che comunque chiedo, ragazzi, vi va di venire una sera in radio? Loro vengono, cioè lasciano il lavoro prima, staccano prima, corrono, si danno da fare. Sono cose che sono piccole cose, ma secondo me sono le cose più grandi e più belle. Guarda, sai quante persone, artisti, che sono partiti dalla loro città in giornata? Per esempio mi viene in mente Frida Neri, partita da Fano in giornata, è venuta qui, ha fatto l'intervista, è tornata a casa. Oppure da Torino, ti ricordi? Sì, certo. Da sola è venuta qui a Torino, ha fatto l'intervista, è tornata a Torino, ma proprio finita l'intervista alle 11 di sera è tornata. Va bene. Insomma, è arrivata a casa. Oppure anche da Genova, visto per che passione. Sì, solo passione, pure passione, quello che ti porta avanti. Sì, è vero. Senti, io ho una passione viscerale per una canzone. È prevista adesso o... Prova a dirmi. No, è qualcosa di grande, non so. O non l'hai prevista adesso? È prevista. Io mi sono innamorato di quella canzone, so anche la storia, ma è giusto che te la racconti tu. E ti cedo la parola. Beh, la storia nasce praticamente da sempre, nel senso che comunque Grande Mario è una persona che è sempre stata dentro di me, c'è sempre stata, e tutto praticamente Grande Mario, l'album è partito dal 7 di ottobre del 2006 ed è stata una serata particolare perché con i Calibro 9, la band che fa parte anche Matteo, abbiamo partecipato a un concorso. Quella sera ho vinto io il concorso come miglior artista della serata e ho vinto una borsa di studio per andare appunto al Music Academy 2000 di Bologna. Ho cominciato a frequentare questa scuola e da lì sono nate queste idee, questa volontà di voler scrivere quest'album. Poi la storia è andata avanti sotto un certo punto di vista, nel senso che questo desiderio di scrivere una canzone per lui era da anni che c'era, non sono mai riuscito a scrivergli qualcosa che andasse bene e ogni volta mi fermavo. Poi una sera mi sono seduto sul mio letto, nella mia camera, il posto in cui io compongo, il mio harem, e lì ho cominciato a suonare questa melodia che sta suonando Manuel e ho cominciato a cantare così, come se fosse lì un dialogo tra me e lui. E in quel momento l'ho sentito lì, attraverso le mie parole ha cominciato a rispondermi. Quella borsa di studio, quel concorso l'ho vinto nell'anniversario della morte di Grande Mario. E MA è l'abbreviazione di Music Academy. Però anche i collaboratori di questo disco, che sono in ordine cronologico Matteo e Alessia, compongono MA. E chi ha fatto le foto di quest'album si chiama Marco. Il progetto artistico, il progetto grafico, lo ha fatto Alberto, mio fratello. Marco e Alberto, MA. MA, Mario Ambrosi, nome e cognome del mio grande nonno. Sai quante volte ho cercato di migliorarmi e non ho mai finito, tu lo sai già. Mi sento dentro me ogni giorno ed ogni notte e a volte sento le tue mani calde su di me. E quante volte vorrei parlarti, guardarti e spiegarti. E tu mi sorridi in quella foto che ha dentro anche me. E quante risposte che vorrei da te. Tu mi dici non tremare, non tremare, non tremare, sono qui con te. Ti sento un po' dentro di me. Ti penso un po' davanti a me. E quante volte vorrei salire dove sai tu, sentire il tuo odore, e le tue parole, vedere le tue mani, guardare i tuoi occhi, sentire la tua voce e poi cantare insieme. Tu sei qui dentro di me, ti porterò nel mondo, ti farò parlare, ti mostrerò con i miei occhi l'amore che c'è. Stai qui ancora un po' e fammi ridere. Grande mare. Questo mio lavoro è il frutto di amore, passione, dolore, gioia, volontà e tanti sogni. È dedicato a tutti coloro che con grande amicizia e piccoli gesti hanno reso, rendono e renderanno la mia vita una meravigliosa avventura da vivere tutti i giorni. E a colui che alla fine di questo cammino mi riabbraccerà tra le sue mani calde, che a volte sento su di me, al mio piccolo uomo, al mio grande Mario. Possiamo dire che questo è un pezzo meraviglioso, bellissimo, anche il pezzo cardine del disco, anche musicalmente un pezzo molto importante. E su questo pezzo, mi permetti Dario, salutiamo la Martina che ti sta sentendo, pezzo molto molto bello, significativo, che dà proprio la chiave di lettura esatta, vera, di una sofferenza, che un album, fare un album non è una cosa semplice, ci vuole tempo, ci vuole voglia, però ci vuole voglia, che è arrivata al punto giusto. Ha inciso questo disco e questo grande Mario ha dato proprio la chiave di lettura giusta di quello che tu sei musicalmente. E grande Mario è arrivato davvero nel momento giusto, anche perché non sapevo ancora che titolo dare a quest'album. E quando ho scritto, quando davvero è nata questa canzone, ho detto questo è il titolo che darò all'album, ed è stata, ancora adesso è un brano che ascolto molto poco, ah, e lo ascolto nei momenti particolari. Pensate che il giorno della laurea, quando mi sono laureato e ho presentato questo progetto che non sapeva praticamente quasi nessuno tranne poche persone di questo mio progetto, e ti racconto questo aneddoto che poi è un insieme di segni, perché sono tutti segni che lui mi ha mandato, indipendentemente che uno creda in qualcosa o meno, però io ho avuto la testimonianza. Sono partito per Bologna, dovevo laurearmi verso il pomeriggio, verso le 3, sono partito prima da solo alle 11 da casa, e facevo sempre quella strada lì, era una cosa che erano 2 anni durante il percorso che dovevo fare, e cioè fermarmi nel paese natale di mio nonno. E mi sono fermato, arrivo dentro il centro, vedo la strada mi indica il centro, e dico, ma secondo me questa non è la strada per il centro. Giro, faccio un giro con la macchina, torno indietro per la strada che secondo me era quella giusta. E in quel momento metto proprio grande Mario, perché era una giornata importante, era una giornata, io certo, la chiamo di gloria, poche giornate nella vita che vivi dall'inizio alla fine. E in quel momento mi arriva un semaforo, diventa rosso, mi fermo, e con grande Mario sotto il sottofondo c'è un cartello che indica, sono 2 cartelli che indicano 2 zone turistiche, quelli marroni, e uno me lo ricordo ancora adesso, c'era scritto Casa dei Baccari e Casa dei Mario. E lì ho sentito, ho detto oggi andrà benissimo, infatti la laurea, la tesi, ho preso uno dei voti più alti, 110 lode, quasi un 110 lode, e sono stato felicissimo, è stata una giornata importante ed è una cosa bella questa, che comunque indipendentemente lui nelle giornate importanti c'è sempre, nei momenti tristi ma anche soprattutto nei momenti di gioia, e questa è un qualcosa che ancora adesso ogni tanto guardo questo disco, me lo gusto, diciamo così, anche perché è stato comunque un lavoro davvero doloroso, gioioso e anche molto difficile, e ancora mi fa davvero davvero sorridere, mi fa sentire queste mani calde su di me che mi avvolgono, insomma. Ti dà sempre l'ispirazione, il quid, è sempre là presente nonostante tutto. Sì, questo è fondamentale. Io ne approfitto per salutare un'altra del filone di Bologna, perché sì, qui sono passati. Io ho pescato moltissimo da Bologna, perché tra la, a parte da Alessia, ma certo, anche da Silvia, falli bene, Alberto. Sì, Silvia. Ciao Silvia! Alberto Desfini, ma soprattutto quella sera che è venuta Alessia, è venuta anche Barbara Gobbi. Oh, grande Barbara! Ci ha regalato veramente in anteprima il suo disco che usciva il giorno dopo. È bellissimo. Adesso non lo dico perché c'è lei, io infatti. È da un bel pezzo che devo mandargli una mail con i quattro brani miei preferiti, e ha fatto qualcosa davvero di fantastico, bello, mi è bravissima. Un sacco. E poi anche un'altra Barbara, che però non ha niente a che vedere, lei è una giornalista che scrive e si sta ascoltando da Roma. Addirittura, sì, ciao Barbara, ciao. Saluto, ne approfitto, così conosco persone nuove. Certo. La stesura di questo disco Grande Mario, come abbiamo già ripetuto, è giusto ripetere un'altra volta, è stata stesura a 3. Quando avete finito, avete deciso, è pronto, cosa vi siete detti fra di voi? Ma c'è stata una grande emozione. Qui c'è anche Matteo che può parlare, sì, se vuole. Diciamo che Matteo è sempre stato colui che era, con la scusa anche della distanza, perché comunque con Alessia dovevamo sentirci, scriverci delle mail, vederci, certo, per carità, era un periodo che ero spesso a Bologna, però con Matteo era un contatto al di là del tempo più intenso, nel senso che comunque lavoravamo quasi tutte le sere, il povero, gli ho fatto fare tante. Se dovessi pagarlo un euro a ora sarebbe un miliardario. Grazie a Dio l'ho fatto gratis e per amicizia, spero che un domani non mi presenti il conto. Però al di là di questo, la prima ad ascoltare, quando abbiamo masterizzato il disco, è venuto fuori da, diciamo così, appena sfornato, sono salito in auto con Alessia e Silvia e gli ho detto: ragazze, qui il brano è pronto. E sembravano, sai, quelle, le due bambine che stanno aspettando il gioco nuovo, il papà che viene a casa con il gioco nuovo. L'ho messo su, è stato la prima cosa che mi ha detto Alessia, ha detto: non badare all'impianto di quest'auto, perché lei è, la conoscete, se lei non è tutto, ed è l'ho scelta anche perché questo, voglio dire, è Pignola, che è fantastica, ed erano lì che belle, cioè era stata una grande soddisfazione. Poi l'ho portata a casa a Matteo gliel'ho dato, l'ho ascoltato, poi l'ho chiamato il giorno dopo, dovrebbe essere andata così, gli ho detto: allora Matteo, com'è andata? Bello. Lui non si spreca. Sì. Vabbè. C'è questo, sai, poi quando scrivi e suoni in continuazione, certo, senti anche magari se ci sono delle imperfezioni, degli errori. Mi fa: questa nota non va tanto. Beh, è stato da ridere, però insomma lui è così, può testimoniare. Senti Dario, ti faccio riposare un pochino. Sì? Torniamo al disco nuovo. Sì? Hai scelto? Difficile, no, ok. Sono qui, che sì, è stato riarrangiato. E come mai? Sono qui, la versione acustica era molto significativa. Sì, sì. La versione diversa, perché già era giusto creare altri stimoli, creare una nuova strada, indagare, evidenziare, allargare. Come mai questa versione decisamente diversa? Sì. Non dico leggermente, diversa. Diversa, sì, un'altra chiave di lettura. Ad Antonio ho presentato vari brani, quelli che per me erano i più significativi e non erano pochi. Certo. Gli ho detto: Antonio, c'è questo. Lui è stato praticamente il primo brano che mi ha riarrangiato. E la prima volta l'aveva riarrangiato in chiave molto più rock. Poi l'abbiamo rivisto per vari motivi, insomma, per varie scelte discografiche, chiamiamole così, e si è innamorato subito di questo brano. Ha detto: sono qui, questa la facciamo. La facciamo così. Poi abbiamo dovuto discutere su altri, magari non animatamente, però, ma secondo me Antonio, sono qui, no, quella è decisa, basta, da quella non si discute. Infatti eravamo d'accordo, anche perché comunque Alessia ha risuonato la chitarra, ha voluto rifarla, per me è stato un piglio. Ho detto: Alessia, ti andrebbe? Ma guarda, ma stai scherzando? Tra un concerto e l'altro di Ranieri, arrivata lì a Bologna in studio, insomma, fantastico. Poi lei non ci mette mica tanto, per carità. Però sì, abbiamo voluto provare, perché no? diamo un gusto diverso, magari a un solito, no, solito, passatemi il termine, comunque la solita bistecca che mangi, invece di mettergli insalata, proviamo a condirla con colori diversi, con gusti diversi. Ci abbiamo provato e c'è chi preferisce la prima versione, chi preferisce questa, sai, i gusti poi son gusti. E a me è piaciuto questo gioco, questo lavoro, anche a livello vocale ho dovuto lavorare molto, perché in studio ho dovuto lavorare molto anche sull'intenzione di come fare questo. Ma vedi, se riesci a fare un'altra versione di un pezzo, vuol dire che il pezzo è valido già per se stesso. Sì, sì. E quello è fondamentale. Guarda, Grande Mario è stato anche, c'è da dire questo, al di là della questione volutamente acustica, è stata un po' comunque un voler scrivere qualcosa che, se prendi quasi tutto l'album, lo puoi portare elettrico in 10.000 salse diverse. Poi vi faremo ascoltare un brano che secondo me è suonato molto rock, con due chitarre pesanti, andrebbe davvero bene. Ci starebbe bene. Sono qui. Ok, ci abbiamo provato. Perfetto. Ascoltiamo. Per vedere che faccia avrai dopo che mi hai mandato via così. Sono qui stanco di aspettare te. Sono qui, sono qui e ci resterò per un po', per un po'. Sono qui ad ascoltare i brividi. Sono qui Radio Sera. 22 passate da 5 minuti in questo preciso istante, o meglio che qualche secondino in più, va bene, non manca mai. E allora questa è Blu Radio Valenza, la vostra emittente preferita, come dico, e sempre io, ma non passo la parola consueta. Oggi è giovedì 10 novembre 2011, siamo in compagnia di uno splendido artista, io, Agostino Spolore e Maurizio Calzavara, stiamo cercando di farvelo conoscere un po' di più, insomma, lui è grande, come appunto suo nonno, grande Mario, lui è grande Dario Petucco, che assieme ricordiamo anche i suoi musicisti che si è portato questa sera, cioè Matteo Valli al piano, Manuel Mocellini alla chitarra. Cos'è che dovevi chiedere a Matteo, Maurizio? No. Ci si diverte, ragazzi? Alzate il volume della radio, eh? No, io volevo chiedere a Dario questo. Sono qui, avevo un bel giro nel disco, grande Mario, un ottimo giro. Riproporre il giro in versione diversa non è stato facile, secondo me. Ci sono dei sinti, ci sono degli arrangiamenti, non dico moderni, ma decisamente elettrificati. Però l'idea è stata interessante. Come abbiamo detto precedentemente, se il pezzo è buono, qua all'inizio, diceva Pete Townshend, l'abbiamo già ripetuto, Pete Townshend, l'abbiamo ripetuto ieri con un'altra band e anche con un musicista americano. Lui, Pete, diceva, se il pezzo è semplice ma tiene, si sente, vuol dire che è un grande pezzo. E quindi è una cosa semplice, cioè, dopo non so se tu sono qui, era un pezzo semplice per te all'inizio? No, sono qui, è nato anche questo con un'idea sia di testo che di musica, nel senso che è nata prima la musica in questo caso, e con un testo in testa, però in quel momento si è lasciato un po' al caso, poi l'ho rielaborato. Diciamo che la versione 2011. La versione 2011 l'abbiamo appunto voluta perché ci piaceva il brano e volevamo farlo girare in maniera diversa con questi synth, con questi strumenti moderni, per dare un tocco davvero diverso. Noi non volevamo praticamente fare il solito, passatemi il termine solito perché dopo tante volte può essere frainteso, il solito brano lavoro pop, nel senso che la mia voce molto spesso viene messa vicino a quella di Francesco Renga grazie a chi, insomma, è un buon livello, però giustamente ti porta via la tua personalità, e oggi come oggi con tutti questi cantanti la cosa più difficile è trovare la propria voce, nel senso trovare la tua interpretazione, non essere paragonato ad altri, che insomma è la cosa abbastanza comune anche con tutti i cantanti che ci sono. E abbiamo voluto appunto arrangiare il brano che non fosse il solito pop, appunto per essere un brano, cioè dire ecco la brutta copia di Francesco Renga. Volevamo qualcosa di moderno, qualcosa di oltreoceano. Abbiamo lavorato su dei synth. Ci parlavi di Seal, diciamo. Sì, addirittura sì. Abbiamo Seal, è stato il nostro, diciamo così, esempio, soprattutto a livello di arrangiamento e anche vocale. Ho dovuto cantare molto leggero, passiamo così il termine, durante le registrazioni, appunto per dar questo intento di accattivante, però nello stesso tempo non troppo non snaturare la qualità del pezzo. Esatto. Benissimo, allora adesso suoniamo qualcosa, il singolo suoniamo, il pezzo nuovissimo che tu hai inciso. Esatto, vi faremo ascoltare Nella mia grande lunga gita, che quest'anno nel mese di aprile-maggio è stato trasmesso in varie radio emittenti nazionali, e mi ha dato tanta soddisfazione, e stasera ve lo facciamo ascoltare nudo com'è, perché è giusto anche portare qualcosa, secondo me, farvelo ascoltare così com'è, naturalmente con la maestria di Manuel, perché insomma non l'ho proprio suonata così io all'inizio, sia chiaro. Il sole nascosto dietro queste colline riflette la sua luce su di te. E l'aria ancora fredda pizzica sul mio viso che ha le labbra che vogliono solo te. Ma credi che la mia voce è qui per te e per quel giorno che ci siamo innamorati insieme. Lascia che il sole scaldi il tuo mare, lascia che il vento porti il tuo nome. Tutto di noi sarà nella mia grande lunga gita. Era tanto tempo fa, eppure non finirà quella fantastica avventura della nostra grande scuola. Ma credi che per una volta credi a me, il nostro amore vivrà in questa grande lunga gita. Lascia che il sole scaldi il tuo mare, tu lascia che il vento porti il tuo nome. Tutto di noi sarà nella mia grande lunga gita. Lascia che il sole scaldi il tuo mare, tu lascia che il vento porti il tuo nome. Tutto di noi sarà nella mia grande lunga gita. Che bella, sì, molto bella, perché giustamente Dario diceva l'ho ridotta all'osso. Com'era? Manuela colorata, ma l'hai ridotta all'osso, voce e chitarra e basta. Sì, perché poi è quella la natura comunque della nascita dei miei brani, perché comunque io strimpello un po' la chitarra e mi dà una mano a comporre senza ombra di dubbio. Poi a volte ho bisogno di Matteo per i pianoforti, mi dà una mano e mi dà delle dritte. Mm-hmm. Però ecco, insomma, è così, nasce così una canzone, poi, come dicevo prima, è la classica bozza, il disegno, sì, fatto a matita del pittore che poi... Io però una domanda a Matteo gliela devo fare. Assolutamente, stavo aspettando. E anche a Manuel, ve la faccio tutte e due e così rispondete tutti e due. Com'è? È difficoltoso, è bello, è brutto, com'è insomma lavorare con Dario? Ma stava dicendo Dario è brutto. È difficoltoso, vi fa, è pignolo, che ne so, insomma... Beh, abbiamo lavorato circa un anno per Grande Mario, ininterrottamente, sabati, domeniche, venerdì sera. Per fortuna ero appena diventato single e quindi non avevo problemi, perché ero abbastanza un datore di lavoro abbastanza severo. Ci siamo trovati perfino la mattina dell'Epifania, mi ricordo, il giorno della Befana. La mattina mi sono dovuto svegliare per andare in sala prove, per provare i pezzi del disco. Su sua richiesta? Beh, ovvio, io non avevo proprio nessun potere. Con me sono sempre gentili. No, a parte gli scherzi, è stata un'esperienza umana, secondo me, prima di tutto, perché siamo amici da una vita, abbiamo suonato insieme con i Calibro 9 per 5-6 anni prima dell'album, e quindi per me è stato, come ho scritto nei ringraziamenti che hai letto prima, è stato un onore, certo, prima di tutto che lui abbia scelto me come arrangiatore, tra virgolette o senza virgolette, Beh, visto i risultati, scusa se ti interrompo, cioè, scelto bene, voglio dire, ha fatto un disco grandissimo, immenso, stupendo. Sì, ci abbiamo lavorato molto, ci siamo incastrati bene tutti certo, e tre, certo. Sia con Alessia, anche se appunto abbiamo composto gli arrangiamenti a distanza, perché io e Alessia l'ho conosciuta che il disco era praticamente quasi già uscito, io prima non l'avevo mai vista. Praticamente è stato un lavoro che si sentivano, è nata tutta una comunicazione, è nato davvero in maniera particolare questo album qui, perché comunque loro due si conoscevano, sono conosciuti attraverso proprio le note, ed è una cosa molto strana e molto bella allo stesso tempo, perché comunque sono riusciti a intrecciarsi. Sì, si vedevano, si sono visti attraverso foto, Facebook, quello che vuoi, però si sono conosciuti appena prima uscisse l'album, ed è stata una cosa un po', per me è stata difficile da gestire, perché ho detto, ma chissà come verranno fuori le cose, però io ho sentito che avevo bisogno di una chitarrista, perché lui ce l'avevo, lui, e quando ho sentito questa chitarrista ho detto, lei, poi però ho pensato, ma che possa lavorare con Matteo. Allora arrivavamo io e Matteo, io con le mie tracce di chitarra che sono, e i suoi pianoforti, e lei ci lavorava come se fosse, mi diceva, guarda Dario, ci ho lavorato tutta stanotte. Ho detto, Alessia, ma devi andare a lavorare? No, ma l'ho fatto volentieri, no. Cioè l'ho fatto con non passione, so come spiegarlo, con grande passione. Trasporto. Ma sai quelle cose che certo. Si incastrano, non so spiegartelo, e spontanee. Sì, assolutamente. E invece Manuel? Esatto, Manuel. Per me invece è diverso, perché io a questo CD qua non ho ancora lavorato direttamente, insomma, certo. Sono stato coinvolto dopo, sì. Però ho avuto modo di lavorare con Dario ad un altro progetto, e sì, è vero, è Pignolo il Petucco, però è anche però è anche di bello, che è estremamente propositivo, ma anche ha la qualità che sa ascoltare. Quindi quando si lavora insieme le proposte non sono mai tagliate, sono sempre accolte e rielaborate insieme in una chiave che magari è comune, non è... Quindi c'è molta democrazia, vuoi dire, insomma. Sì, questo sì. E poi l'Epifania a me non mi ha mai chiesto. Ti chiederà il Natale. Esatto, no? Farai il Babbo Natale. Allora, Babbo Natale e la Befana. No, a parte gli scherzi, adesso parentesi, ci facciamo un po' di pubblicità. Io e Manuel lavoriamo appunto a questo progetto che è bellissimo ed è Specchi di un'avventura. Grazie dell'invito a proposito. Assolutamente. Siamo un trio acustico. Il 26 di novembre saremo a Marostica per questa serata, che in parte sarà in beneficenza per l'associazione di Don Mazzi in Madagascar, dove Roberto, l'altro chitarrista, ha lavorato in un anno lì con i ragazzi appunto del Madagascar. E una cosa bella di questo trio è che, ad esempio, io dico sempre di essere una persona un po' permalosa sotto certi punti di vista. Manuel ha la caratteristica, adesso non perché è qui, ma ha la caratteristica molto bella di che quando mi deve fare le critiche, ma lo stesso Matteo, è per questo che riusciamo a lavorare anche benissimo, perché a volte i rapporti umani sono difficili da gestire, ha la bella maniera di dirmi le cose in maniera intelligente, con rispetto e con umiltà. Mi dice, a volte mi dice, guarda Dario, secondo me questa la devi cantare così, prova. Non è che ti dice, ma l'ha fatto... cioè, collaborare in questa maniera qui, e tante volte è lì che nascono i problemi delle band, collaborare in questa maniera non mi crea nessun problema, perché se mi arriva uno che non conosco e mi dice, tu hai cantato così, così, ma tu chi sei? Cioè, ma non certo. Perché io sia meglio, assolutamente, sì. Però è costruttivo, quando una cosa è costruttiva nascono delle cose belle, certo. E fatte bene soprattutto, poi possono non piacere, De André non può non piacere, non so se l'ho ricordato che siamo un tributo, non l'hai detto. Ecco, non siamo un tributo acustico, esatto, a Faber. E ripeto, non perché ci partecipo io, ma è una cosa meravigliosa sotto il punto di vista di arrangiamento, perché Manuel e Roberto hanno fatto un lavoro. Alcuni brani inviterò tutti ad ascoltare, in particolar modo Il Testamento di Tito, tratto dalla Buona Novella. Lo hanno fatto, che è la prima volta, guarda, c'è ancora la pelle d'oca, la prima volta me la fanno ascoltare, e l'ultima volta che l'abbiamo provata, la prima volta ho detto, ragazzi, siete due maledetti e vi odio morta con questa cosa, perché hanno fatto un lavoro meraviglioso. Manuel e Roberto hanno arrangiato questo brano. Io alla fine, tra virgolette, ci devo mettere solo la mia interpretazione, aiutata da loro. Però loro fanno è quello il bello, e questo lavoro sempre di arrangiamento che insieme... Senti Dario, lo diciamo al pubblico? Sì, di di quello che mi hai già promesso. Cosa che ti ho promesso? Già non mi ricordo più. La buona novella. Esatto. Allora, ci stiamo lavorando, sì. Perché c'è un problema logistico. Abbiamo il nostro chitarrista Roberto che sta a Milano, e da qualche problema a spostarsi. Però ce la stiamo mettendo tutta. A breve termine vi diamo una conferma, però spero e mi auguro con tutto il cuore di essere qui. Beh, comunque la conferma... Poi ne parleremo, ecco. Però nel momento giusto, o forse un po' quello, vediamo. Vabbè. Saremo qui. Vabbè, con Manuel. Io la conferma gliela do già, e la settimana prima di Pasqua avremo qui Dario che ci presenterà assolutamente tutta la serata dedicata a Andrea. Faremo alcuni brani dal vivo. È un'idea nostra di Maurizio Emilia, insomma, a noi grazie, molto, molto, molto, molto, molto, molto piacere. Per concludere il discorso, un secondo, cioè sì, che poi secondi, suoniamo perché sono già le 20. Anzi, suoniamo e poi parliamo. No, volevo solo dire che secondo me La Buona Novella è il più bel disco che lui ha scritto. Ci fai ascoltare una canzone e poi ci salutiamo, dai. Ok, vai. Ok. E poi ne fai un'altra ancora. Sei più grande del mare. Ah, che bella questa. Mm-hmm. Questa è... Puoi già andare, vai, vai. Vai, vai. Splendida, con questo sole che scalda, quello che voglio sei tu. In questa giornata tiepida, con questo vento che parla, quello che voglio resti tu. In questa notte passata, con la sua luna eclissata, quel che ho voluto eri tu. E nella serata cantata, e in ogni emozione provata, quel che ho pensato sei sempre stata tu. Sei più grande del mare, sei più calda del sole, sei il più bel fiore dentro me. Sei dentro in un fiume, sei dentro la neve, sei comunque sempre dentro me. E nelle tue parole, così intense e così rare, racchiudi un mondo spettacolare. E nei tuoi abbracci e nei tuoi baci mi fai vedere mondi inesplorati. E nei tuoi sguardi e nei tuoi occhi ho visto a volte lacrime, gioia e di dolore, di rabbia e d'amore. Ma non ti preoccupare, io sono qui. Sei più grande del mare, sei più calda del sole, sei il più bel fiore dentro me. Sei dentro in un fiume, sei dentro la neve, sei comunque sempre dentro di me. Oh, oh, oh, sei più grande del mare, sei più calda del sole, sei comunque sempre dentro di me. Che bella questa, quasi quasi da battarci le mani. Sì, sì, beh, vero, vero. Bravo, bravo Dario, veramente. Beh, questo... bravo anche i musicisti che ti hanno accompagnato. Certo. Grazie. Questo praticamente io lo considero il brano più, no, mieloso no, però quello proprio più romantico. Questo è stato scritto in una delle prime giornate dopo l'inverno, quelle giornate che ti scaldano, sono alle 2 di pomeriggio, che sto calore. Grande, bellissimo, grande, grande. Ti aspetto, ti aspetto. Assolutamente, ci saremo. Oh, ed è uno dei brani più romantici, o forse proprio il più romantico, scritto in questa giornata primaverile d'inverno, comunque, e questo scolore che scaldava, insomma, questa ragazza che comunque, insomma, aveva più grande del mare, non si può dire. Dario, siamo arrivati alla fine. Sì. Lasciamolo. No, peccato. Già. C'è un'altra mezz'ora. No. Ai. Dobbiamo lasciare lo spazio ad Alberto con la sua, il suo programma di musica rock, la sua classifica. E, noi ti ringraziamo ancora una volta di essere venuto qui a trovarci, a farti ascoltare la tua musica. Grazie a voi, ragazzi, è stata un'esperienza bellissima. Lo dico in diretta, sei ancora amico per me, lo sai. Assolutamente, guai. Ti aspettiamo allora per la buona novella. Ci saremo. Un grazie a Matteo. Ciao a tutti, grazie. Un grazie a Manuel. Ciao, grazie. Ciao. E un'ultima cosa che non abbiamo ancora detto: il tuo sito, dove si può acquistare il disco? Allora, il disco Grande Mario lo potete acquistare tramite me, oppure lo potete trovare al Pick Up a Bassano del Grappa. È un negozio molto famoso. Esatto, perché a livello di distribuzione è stato un problema. Di conseguenza, contattatemi su Facebook Dario Petucco, MySpace Dario Petucco, addirittura Reverb Nation, che ci sono lì poco, però Facebook mi trovate lì senza nessun problema. Scrivetemi in diritto, non c'è nessun problema. L'album costa poco, davvero poco. Anche ed perché è una grande spesa. Ha un bel libro dentro, insomma, c'è delle bellissime foto fatte da Marco Bizzotto, che saluto. Invece Luce e Calore le potrete trovare, come vi ho detto prima, sui vari digital store, iTunes e quant'altro, a poco meno di 3 euro. Un'altra volta, i prossimi concerti che c'hai? Allora, il prossimo concerto ce l'abbiamo il 26 di novembre, appunto, con il Trio De André. Sempre con il Trio De André saremo a Milano, nelle zone di Milano e Novara, il 2, 3 e 4 di dicembre. Poi il 19 dicembre di nuovo Buona Novella completa, con i due, con il progetto, con i due cori e l'orchestra, solamente senza Specchi di un'avventura. E poi andremo a gennaio-febbraio. Dario Petucco cerca e spera di fare un live al più presto con nuovi brani, però vi avviseremo. Certo, va bene. Prima di ascoltare l'ultima canzone, io, Maurizio, ti ringrazio intanto di aver fatto compagnia. Beh, io ringrazio sempre te di ospitarmi, di chiamarmi. E ti rivoglio giovedì prossimo, perché abbiamo una serata, io la definisco thrilling, nel senso che, su serio, ma non è vero senso della parola, perché verranno qui dei musicisti straordinari da Roma, ne vengono a presentare un progetto inedito, straordinario secondo il mio punto di vista. Fanno la colonna sonora integrale del film Shining, quello di Stanley Kubrick. Fantastico. Siccome qui a Padova viene proposto in teatro il giorno dopo, però Blu Radio Veneto ha avuto questa grande esclusiva, e ringraziamo appunto Giuliano Violati, che dei Sismica, che ce l'ha regalata. E verranno a presentare questo progetto qui a Blu Radio Veneto giovedì prossimo alle ore 21. Quindi sarà una serata straordinaria di musica progressive, ovviamente, ma insomma è straordinaria, veramente sono straordinari. Con la Rane, com'è che si chiama, Maurizio, che non mi ricordo più? Rane, c'è il disco davanti. Rane strane, scusa. Ecco, esattamente. Chiedo scusa. Va bene, Agostino vi saluta, vi auguro un buon proseguimento all'ascolto dei programmi con Alberto Prisco e la sua musica. Ciao Maurizio, e Dario, con cosa ci saluti? Vi saluto con un brano che si chiama Lontano da qui, un sogno. Ok. Ok. Ciao. Esco di corsa da casa e trovo me solo in mezzo alla gente. Provo a guardare, ma non so cosa devo cercare, e trovo te e mi guardi e sorridi e cominci a parlare. Non ti riesco a sentire. Ti muovi, ti vedo, mi cerchi, mi muovo, ci provo, lo giuro, non sono sicuro. E voglio andare dove non lo so. Comunque lontano da qui. Domani e non riesco a prenderle, ci riprovo ed è già domani, il sole va giù ed io sono ancora qui da solo nel buio e voglio andare dove non lo so, comunque lontano da qui. Mi nascondo e non lo so da chi. Mi cerchi, mi muovo, ci provo, lo giuro, non sono sicuro. Grazie.